Benvenuti gentili ascoltatori e ascoltatrici, questo è Absolute Beginners e io sono Babe. Io sono Sasà. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un gruppo che si chiama Polvo, che significa polipo in portoghese o polvere in spagnolo, Babe. Un gruppo che di nuovo non penso che molti conoscano, un gruppo che viene da una piccola cittadina della North Carolina, si chiama Chapel Hill, e di nuovo, dov'è North Carolina, dov'è Chapel Hill? Facciamo le cose con calma. Comunque North Carolina non è molto distante da Washington, e perché Chapel Hill? Bah, perché Chapel Hill è una piccola cittadina con una gigantesca università, forse con una popolazione universitaria maggiore della popolazione stessa della città, che penso sia tipo 55.000 abitanti, una cosa del genere. Forse questo ha facilitato il nascere di band come i Polvo, i Superchunk e tanti altri, ma ne parliamo dopo. Ok, i Polvo di cui stiamo parlando, dicevamo, sono un gruppo di Chapel Hill, direi uno dei più famosi, ma stiamo parlando di 30 anni fa, si formarono esattamente 30 anni fa, 1990-91 comunque. Erano due ragazzi che si conobbero, ovviamente a questo punto, è un corso di spagnolo in un college, nel college penso di North Carolina University, di Chapel Hill, si chiamavano Ash Bowie e Dave Brilavski, scusatemi, no, qualcosa del genere, scusate la mia pronuncia del polacco, quella che è. E poi, ovviamente, come nella migliore tradizione rock and roll, chiamarono qualche amico e buttarono su il tipico quartetto rock, ma tipico fino a un certo punto. Ricordo che siamo all'inizio degli anni 90 ed era il periodo del grunge. Beh, i Polvo non suonavano esattamente grunge. No, questi ragazzi probabilmente erano loro due e insieme poi arruolarono Steve Robson al basso e Eddie Watkins alla batteria. Mi piace pensarli come i quattro più fissati di musica della classe, ai quali non interessava nient'altro se non suonare, quindi si incontrano, iniziano a scambiarsi gli album della SST, quindi appunto, vabbè, come stavi dicendo, la musica che all'epoca ascoltavano era prevalentemente forse punk e hardcore, però con questa chitarra in mano i nostri ascoltatori e ascoltatrici avevano sentito che le sonorità sono diverse da quelle proprio dell'hardcore. Ah, c'è rimasto poco. Thank you. Eccoci qua, allora stiamo ascoltando Cochrane Secret 1992, prima fatica dei Polvo di Chappell Hill, ricordiamo i nostri telespettatori. E due cose mi fanno venire in mente i Sonic Youth. La prima è il suono di questo gruppo e le chitarre e il loro tipo di approccio. La seconda è Chappell Hill, a me mi è venuto subito in mente il brano di Dirty, album di Sonic Youth, dove appunto uno degli ultimi brani, se non sbaglio, si chiama Chappell Hill. Sì, dove i Sonic Youth celebrano la scena di Chappell Hill e poi, grazie a loro, noi Pischelli degli anni 90 siamo venuti a conoscere questa scena e questi gruppi, uno dei più famosi erano i Superchunk, forse anche per il nome del gruppo, e Mutatis Mutandis, i Superchunk furono anche i fondatori della Merge Records, che pubblicava tutti questi gruppi della North Carolina e di Chappell Hill in particolare, tra cui ovviamente questi Polvo, che inizialmente vecchio stile proprio, come si faceva 10 anni prima, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, come avevano fatto gli Askerdoo, per esempio, uscivano su 45 giri, sui famosi 7 pollici. Il primo brano che avete ascoltato si chiama Vibra Cobra, era uscito come singolo. Poi non penso che avesse avuto questa heavy rotation sulle radio locali o internazionali, però probabilmente nella college radio di Chappell Hill girava e comunque un mercato c'era. Ragazzi che compravano dischi della Merge, piano piano la Merge, che tuttora è in attività, è cresciuta fino a pubblicare anche dischi come l'esordio e il secondo e il terzo disco di Arcade Fire, e lì non erano poche centinaia di Beh, lì copie. hanno raggiunto le classifiche. Si può certo dire che i testi dei Polvo siano di una grandissima profondità, o forse sì e noi non li capiamo. Di certo in fase di registrazione non erano tenuti in gran conto, perché erano spesso sommersi dal rumore delle distorsioni delle chitarre o addirittura del basso, che tra l'altro è spesso in contrappunto con batterie e chitarre, insomma una cosa abbastanza inconsueta per l'epoca. Sì, ma gli stessi Polvo dicono che non stavano poi troppo tempo a pensare a cosa cantare, che parole usare, perché la musica strumentale e il loro suono era il loro focus, quello cui tenevano in assoluto di più, e ai Polvo e ad alcuni altri gruppi della stessa epoca viene affibbiata questa etichetta di math rock, che i nostri ascoltatori potremmo, beh, prima di tutto si faranno loro un'idea ascoltando la musica dei Polvo, ma è musica che viene temporaneamente dopo il post rock, Babbe, no? Più o meno siamo negli stessi anni. Siamo negli stessi anni. Più o meno, sì, math rock è più forse i gruppi americani post dell'area appunto di Chapelle, math rock più quelli dell'Illinois, ma sono dettagli, poi in realtà sì. Il primo gruppo post rock era inglese, quindi ma sono poi categorie giornalistiche, però gli anni erano comunque, certo, questi. Qua siamo nel 91-92, questo disco è del 92, del primo LP, si chiama Core Crane Secret, e sarebbero durati lo spazio di 6-7 anni. Era il classico gruppo di ragazzi che si erano conosciuti nel college, poi quando passati 20 immagino che non abbiano venduto tanto quanto gli Arcade Fire. No, credo proprio di no. Infatti poi caddero nel dimenticatoio, salvo poi nel 2020 appunto la Merge Records ha stampato di nuovo il loro album in vinile. In vinile nel 2008 si erano, come spesso accade per tanti di questi gruppi, fecero una piccola reunion, suonarono la Primavera Sound per esempio, e così qualche vecchio fan magari è riuscito a rivederli dopo essersi dimenticato di loro. violins the same as always. It's right above my head in the hallway. Peeling of paint disguising a sound kind of faint, living and rising. I'm wondering why you're in the picture at all now, watching me waiting for my cue to fall down. Eccoci qua ancora, stiamo piano piano finendo di ascoltare, siamo quasi al termine del primo album dei Polvo, Corcrane Secret, ripetiamo, 1992, Merge Records. Il successivo anche uscì per Merge Records e invece in seguito i Polvo si unirono alla Touch and Go, forse cercando una fortuna, era un pochino più grossa la Touch and Go all'epoca, perché poi, come abbiamo già nominato, come abbiamo già detto ai nostri ascoltatori, la Merge Records poi negli anni produsse tutto Bob Mould quando gli Asker Du finirono, gli Arcade Fire che fecero un botto clamoroso e alcune chicche di musica underground indipendente come i due album di Neutral Milk Hotel, che credo che alcuni dei nostri ascoltatori sicuramente conoscerà. Beh, insomma, non era facile per i Polvo raggiungere notorietà, era a loro una musica piuttosto astratta, sì, è rock, jazz, folk, c'è un po' di tutto, è un gran crossover. Era l'epoca del crossover, ma non è il crossover dei Red Hot Chili Peppers, dove si ascolta bene il funky, si può distinguere il rock, il punk, ed è comunque musica orecchiabile. No, i Polvo all'orecchiabile lasciavano quasi nulla, astraevano tanto, un po' forse la Captain Beefheart, era musica molto concettuale, e soprattutto ho sempre pensato che i Polvo richiedessero attenzione. Difficile ascoltarli mentre si fa qualcos'altro, anche perché sennò non si capisce proprio niente, perché il cantato, se non si sente, e anche se si sentisse, è quasi nonsense. E le armonie sono comunque difficili, è tutto contrappuntistico, insomma, non sono mai stati un gruppo semplice, anche per chi veniva dall'ascolto di band come Sonic Youth. Certo, questo si nota già dalla loro prima uscita discografica, ma in maggior modo si sente nel primo album uscito con la Touch and Go, Exploded Drownings del 96, che è un doppio album dove tutte queste caratteristiche della loro musica che Babel finora ha elencato si moltiplicano, si espandono e sì, diciamo Esplodono. esplodono, esatto. We'll be right back. Beh, non era facile neanche ascoltare musica strumentale in questi anni, ricordo. Siamo nel 1992 in pieno boom grunge, e a meno che uno non era proprio fissato con le riviste, stesse dietro le scene, o magari era di Chapel Hill, non era proprio immediato. C'erano stati già altri gruppi, citato il più famoso ora, gli Slint, che avevano fatto dei gruppi, dei dischi di musica di rock strumentale, ma poca roba, e poi tutti i gruppi che erano rimasti totalmente underground. Comunque, qui ad Absolute Beginners siamo arrivati agli sgoccioli e ai saluti. Spero che i polvo vi siano piaciuti, ma soprattutto, guardate, gentili ascoltatori, spero di avervi fatti conoscere. Che dici, Sassan? Ma io dico che il nostro proposito è sempre quello di far ascoltare qualcosa di nuovo, visto che Guns N' Roses e i Nirvana, che erano i gruppi che in questi anni andavano, probabilmente voi ragazzi e ragazze, signori e signori che ci ascoltate, li avete già sentiti nominare. Io ricordo il sito neverbeginners.blogspot.com, dove potete ascoltare i polvo, leggere qualcosa su di loro, ma anche le nostre vecchie puntate. E con questo? E con questo salutiamo Babe. Qua Sassà. Saluti anche da Babe e alla prossima. Alla prossima.